Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buona serata e ben ritrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo la storia di Steve Wozniak, il mago della Apple che ha realizzato il primo computer accessibile alle persone comuni. Dopo l'ascesa fulminea al successo, all'apice di una brillante carriera, Wozniak resta vittima di un grave incidente. Con una nuova visione della vita, Wozniak lascia la Apple e investe milioni di dollari nel mondo del rock and roll. Quando il mondo della finanza lo delude, abbandona la tecnologia per dedicarsi alla propria felicità. Steve spende gran parte della sua fortuna per divertirsi, ma al contrario di molti altri milionari, la usa anche per buone cause. Figlio di un ingegnere elettronico in un'azienda di aeromobili, la madre, Margaret Wozniak, racconta che il piccolo Steve ha ereditato le abilità tecniche del padre. Faceva di tutto fin da bambino. All'epoca, proprio come oggi, all'interno delle confezioni di cereali c'erano delle sorprese. Erano giocattoli piuttosto difficili da montare, ma Steve si sedeva, li osservava e poi li assemblava. Riusciva a montarli senza leggere le istruzioni. Ma legge tutte le altre cose che gli capitano tra le mani. E crescendo, sviluppa la passione per il mondo a cui appartiene il padre, l'elettronica. Assemblare oggetti diventa il passatempo preferito di Steve. A 11 anni costruisce la prima stazione radio amatoriale. Ma quando finalmente può usarla, si annoia. Bill Ferzand, vicino di casa di Steve Wozniak. Costruì uno dei primi computer con il quale era possibile fare il gioco del Tris. In pratica era un pezzo di compensato con piantati dei chiodi che tenevano i vari fili. Con i suoi primi computer, semplici ma abbastanza buoni, Wozniak partecipa a diverse fiere scientifiche della scuola. Si confronta con ragazzi molto più grandi di lui e molto spesso vince il primo premio. Nei primi anni 60, i computer sono macchine da milioni di dollari, che riempiono stanze intere di processori, bobine di nastro magnetico e schede perforate. Solo le grandi aziende, il governo e l'esercito possono permetterseli. Le persone comuni non si sognano nemmeno di vederne uno. Di sicuro, Wozniak non pensa di basare la propria carriera sui computer. Nei primi anni dell'adolescenza, Wozniak è piuttosto impacciato. È molto timido e non è ancora mai uscito con una ragazza. Ma alla fine trova il modo per farsi notare. Diventa un instancabile burlone e lo rimane per tutta la vita. Don Fornier, insegnante di Steve. Una mattina John McCollum venne da me e mi disse: dobbiamo andare in direzione perché le campanelle sono impazzite. Pensiamo che nel fine settimana Steve Wozniak sia entrato nell'edificio dell'amministrazione e abbia riprogrammato le campanelle per farle suonare in orari sbagliati. Pensammo si trattasse di uno scherzo, e lo era. Nel 69 è una matricola dell'Università del Colorado. Costruisce un apparecchio grande come uno spillo, in grado di distorcere le immagini di un televisore, e lo utilizza per fare scherzi nel dormitorio. Wozniak però non si impegna molto nello studio, e dati gli standard dell'Università del Colorado, dopo un anno è costretto a tornare a casa. Comincia a frequentare un istituto superiore locale, ma non lo trova affatto stimolante. Così, lavorando part-time, mette da parte i soldi per iscriversi all'Università di Berkeley, nel 1970. Lì, Wozniak conosce il movimento contro la guerra del Vietnam, le canzoni di protesta di Bob Dylan e John Draper, un mago della tecnologia conosciuto come Capitan Crunch. Il capitano fa telefonate gratis in tutto il mondo servendosi di una blue box, che emette segnali in grado di emulare le frequenze delle apparecchiature delle compagnie telefoniche. Wozniak decide di costruire una blue box tutta sua, per poi mostrarla all'eroe del campus. Quando il capitano vede la versione di Wozniak, rimane colpito. Wozniak condivide i segreti della sua blue box con un altro studente, Steve Jobs, con il quale comincia una collaborazione d'affari. Steve Wozniak. Steve mi propose di venderla per guadagnarci qualche soldo, ma io volevo solo farla vedere. A causa della Blue Box, il capitano Crunch finisce in prigione. L'accaduto spaventa Wozniak e anche Jobs, che abbandonano il progetto di venderla. Lasciano anche l'università e iniziano a cercare lavoro nella zona intorno alla loro città, ora chiamata Silicon Valley, a causa dell'alta concentrazione di industrie di semiconduttori. La società più attiva è la Atari, che produce videogiochi. Jobs va a lavorare lì, mentre Wozniak ottiene un posto da ingegnere alla Hewlett-Packard. Wozniak inizia ufficiosamente anche un secondo lavoro, quando Jobs gli chiede di aiutarlo a progettare per la Atari un videogioco chiamato Breakout. Il problema è che il lavoro deve essere finito in fretta e deve includere meno di un centinaio di chip, al contrario degli altri videogiochi dell'epoca. Wozniak accetta la sfida. Jobs ottiene una gratifica e ne dà solo una minima parte all'ingenuo Wozniak. Ma questa esperienza è una tappa importante. Imparando a lavorare con meno chip, Wozniak imbocca la strada che lo porterà a rimpicciolire i computer fino a renderli adatti all'uso domestico. Fin dalle medie, Wozniak cerca un modo per creare dei computer più efficienti, ma semplicemente come sfida personale. Incoraggiato dagli amici, Wozniak porta i suoi computer all'incontro settimanale di un club locale di elettronica. È lì che per la prima volta si rende conto di avere un enorme potenziale. L'Homebrew Computer Club è una libera associazione dei più audaci ed eccentrici fanatici dell'informatica della Silicon Valley. Stimolato dall'ambiente, Wozniak si occupa di nuovi aspetti del computer. Dopo aver trovato il modo di utilizzare meno chip del normale, si concentra sull'immissione e la visualizzazione dei dati. Introduce una tastiera, collega il computer al monitor di un televisore e inventa un nuovo incredibile linguaggio di programmazione, il BASIC. Wozniak sa che sta facendo qualcosa di innovativo, ma non ne coglie la straordinaria importanza finché non interviene ancora una volta Steve Jobs. Ancora Wozniak. Steve venne a qualche incontro all'Homebrew Club, capì che quelle persone volevano qualcosa di nuovo e, come al solito, vide la possibilità di guadagnare soldi. Mi disse: perché non vendiamo computer? Li costruiamo con $20 e ne chiediamo 40. Margaret Wozniak, madre di Steve. Ricordo benissimo quando cercarono di trovare un nome per la società. Io me la cavo abbastanza bene con le parole, così cercai di aiutarli, pensando a un nome intelligente. Proposi What's Jobs, ma Jobs preferiva che fosse Jobs What's. Non mi venne in mente nient'altro. Poi a un certo punto, non so come, uscì fuori il nome Apple. Così, nell'estate del 76, nasce la Apple Computer. La creazione di Wozniak viene chiamata Apple One e viene venduta a qualche centinaio di soci dell'Homebrew Club. John Draper, capitano Crunch. Ricordo il debutto all'Apple One, al club. La gente rimase colpita. Tutti lo volevano. Wozniak continua ad apportare miglioramenti all'Apple One, aggiungendo colori, grafica e suoni, e usando sempre meno chip in ogni nuova versione. Questo efficiente modello getta le basi per l'Apple II, il primo PC con un linguaggio di programmazione accessibile a tutti. Steve Wozniak. Per la prima volta un computer usciva dallo scatolone già montato e con un linguaggio di programmazione. All'improvviso, il business dei piccoli computer acquista un nuovo potenziale, presto riconosciuto da un ingegnere che decide di scommettere su nuove imprese. Mike Markula sente parlare di quello che succede nel garage di Jobs e va a vedere. Steve era al suo tavolo di lavoro, intento a perfezionare quello che sarebbe diventato l'Apple II. Io mi avvicinai per dare un'occhiata ed esclamai: accidenti, questo è esattamente ciò che serve per dare il via al business del personal computer. Nel gennaio del 77, Markula offre $300,000 e diventa il primo direttore generale della Apple. L'unico problema è che Wozniak, il cervello della società, lavora ancora per la Hewlett-Packard. Mi spaventava iniziare una società e non ero tagliato per quel genere di cose. Così dissi: voglio solo progettare computer e software e lavorare per la HP. Non avvierò la Apple. Steve mi fece chiamare da parenti e amici per convincermi, ma alla fine trovai un'altra persona desiderosa di intraprendere il progetto. Alla fine, Wozniak e Jobs escono dal garage per andare in un vero e proprio ufficio. La Apple II ha una pratica scatola di plastica beige e Markula incarica una ditta pubblicitaria di promuoverne l'utilizzo in case e uffici. Nel 77 i tre mostrano al pubblico l'Apple II alla fiera del computer della West Coast. Lì, mentre Wozniak resta in disparte, Jobs domina la scena. Mike Markula, investitore. Credo che fummo la principale attrazione della mostra. Il nostro computer era esattamente ciò che la gente voleva. Fu un colpo sensazionale. Presto, la Apple diventa la prima a entrare con successo nelle piccole aziende, nelle scuole e nelle case. Nel primo anno, la società guadagna quasi $800,000, superando tutte le aspettative, e il futuro è roseo. Nel 1978, Wozniak può dirsi realizzato. Apple II riscuote un enorme successo come primo personal computer commerciale. Wozniak continua ad apportare al PC una serie di miglioramenti innovativi, rendendolo un apparecchio insuperabile. Mentre Steve Jobs si fa un nome nel mondo dell'imprenditoria, Steve Wozniak diventa una leggenda nel mondo dell'informatica. Andy Herzfeld, ingegnere della Apple. Era volenteroso e pieno di talento e metteva tutta l'anima nel suo lavoro. Certo, a volte quello che faceva poteva essere definito pazzesco, oltre naturalmente che geniale e innovativo, ma era unico. Mentre il rapporto sentimentale con Alice è andato a rotoli, quello lavorativo con Steve Jobs si è rafforzato sempre più. Wozniak progetta le macchine e Jobs le realizza. Negli anni Ottanta i due sono i beniamini dei media e, forti del boom delle vendite dell'Apple II, sono pronti a quotare in borsa la propria società. Sulla carta, le azioni assegnate a Jobs, Wozniak e il direttore generale Mike Markula sembrano divise equamente, ma Wozniak non la pensa così. È preoccupato per i dipendenti e pensa che anche loro dovrebbero averne una parte. Prese una parte del suo ingente capitale azionario e inventò un piano di incentivazione per regalare le quote ad alcuni dipendenti in forma di bonus. In seguito consentì a tutti quelli che lavoravano alla Apple da un certo periodo di acquistare fino a 3.000 azioni. Quelle persone hanno guadagnato centinaia di migliaia di dollari. La prima offerta pubblica per la Apple Computer avviene a dicembre del 1980 ed è la più alta nella storia di Wall Street. Tutto d'un colpo, Steve Wozniak si ritrova con 50 milioni di dollari. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla storia di Steve Wozniak, il celebre ingegnere della Apple. Steve è all'apice della sua carriera, ma un imprevedibile fatto sta per cambiare la sua vita definitivamente. Anche la sua vita privata cambia in quel periodo. Wozniak comincia a frequentare una contabile della società, Candy Clark. Lui ha una Porsche nuova fiammante e un aereo da 200.000 dollari, che pilota personalmente. Ma non ha idea della rapidità con cui la sua vita cambierà di nuovo. A febbraio dell'81, Steve decide di chiedere a Candy di sposarlo e, per rendere la cosa il più romantica possibile, organizza un fine settimana fuori, insieme a due amici. I quattro partono per San Diego a bordo dell'aereo di Wozniak, che come sempre pilota lui. Al momento del decollo, l'aereo sale troppo in fretta e qualche secondo dopo vira bruscamente e si schianta al suolo. Tutti e quattro i passeggeri riportano ferite gravi, ma Steve e Candy sono quelli che subiscono lesioni maggiori. Lei si rompe le ossa della faccia e deve subire un intervento di ricostruzione. Lui, in seguito ritenuto responsabile dell'incidente, riporta lacerazioni al viso e una frattura della mandibola e, cosa ancora più grave, temporanei danni cerebrali. Quando torna alla Apple, la società si sta espandendo in fretta e ha avviato diversi progetti con altri ingegneri. Wozniak viene reinserito come consulente scientifico e, in un certo senso, viene messo da parte. Laura Roybach, assistente del direttore. Non partecipava più alla progettazione. Si limitava a rispondere alle domande degli ingegneri. In un certo senso serviva da stimolo. 4 mesi dopo l'incidente aereo, Steve sposa Candy, ma non si sente affatto tranquillo. È tormentato dall'ambiguità del suo ruolo alla Apple e per la prima volta comincia a pensare a una soluzione drastica. Andy Herzfeld, ingegnere della Apple. Non era più coinvolto in prima persona nello sviluppo dei nuovi computer. Prima dell'incidente stava lavorando al Macintosh, ma aveva solo cominciato a impostarlo, per cui quando tornò non aveva più un progetto e decise di prendersi una pausa. Così chiese un'aspettativa. Wozniak ha 32 anni quando si allontana dalla società che ha fondato assieme a Jobs 5 anni prima. La sua invenzione, l'Apple, è il personal computer più diffuso al mondo e il primo a raggiungere il miliardo di dollari nelle vendite. Wozniak ha un pacchetto azionario che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari, ma ormai il suo ruolo nella società è cambiato e il suo lavoro non è indispensabile come prima. Negli anni 60 e 70, San Francisco è uno dei centri mondiali del rock e in gran parte grazie al promoter Bill Graham. Con esibizioni di artisti come Santana, Journey e Jefferson Airplane, Graham mette in piedi alcuni dei più grandi concerti della storia del rock. Nel 1982, alla sua lunga lista di ringraziamenti, deve aggiungere quelli a Steve Wozniak. Uscito dalla Apple, Wozniak si iscrive all'Università di Berkeley per conseguire la laurea in informatica e in ingegneria elettronica. Con una fama mondiale e una fortuna multimilionaria, Wozniak trova difficile passare inosservato tra i ragazzi. Ma quando un giorno si reca nell'ufficio di Bill Graham a San Francisco con un'idea per lo US Festival, nessuno lo riconosce. Nicholas Klenos, della Bill Graham Presence. Devo ammettere che non avevo idea di chi fosse quando venne da me. Mi espose le sue idee sul festival, ma erano talmente vaghe e sconnesse che feci fatica a capirlo. Nella sua mente però il progetto era chiaro e pensai che l'importante fosse quello. Il primo tentativo di Wozniak di sfondare nel mondo della musica si rivela decisamente ambizioso. Si offre di finanziare personalmente gran parte dell'evento, che si svolge in 3 giorni, sborsando 12 milioni di dollari. Trova il posto in cui accogliere il festival nel deserto vicino a San Bernardino. Procura un palcoscenico all'avanguardia e tutti gli aiuti logistici necessari per ricevere un pubblico di 100.000 persone. Bill Graham contatta grandi nomi come i Grateful Dead, Santana e una decina di altri artisti. Il fine settimana della festa dei lavoratori del 1982, Steve Wozniak si ritrova a suonare insieme ai grandi del rock. Mickey Hart, dei Grateful Dead. Wozniak è un uomo che ha avuto una visione. La sua idea mi piace e penso che il festival sarà molto emozionante. Wozniak cerca anche di unire il mondo del rock a quello della tecnologia. Insieme alla Apple, all'Atari e ad altre società di computer, associa al festival una fiera tecnologica. In poco tempo, Wozniak sperimenta di persona la notorietà delle rock star. Il 5 settembre 1982 comincia lo US Festival e Wozniak entra nella storia del rock. Jim Valentine, promoter musicale. Non dimenticherò mai la serata di apertura del primo festival. C'era la luna piena e quando i Police salirono sul palco ci fu il delirio. Non lo scorderò mai, fu un momento magico. C'erano 200.000 persone, fu incredibile. Ma quando il pubblico diventa il doppio del previsto, cominciano i problemi. Cancelli rotti, droga, sedie distrutte. Wozniak, bersagliato da giornali e televisioni, si mostra ottimista. La sera prima del concerto, Candy, la moglie di Wozniak, ha le doglie e il giorno dopo la loro prima figlia, Jessie, sale sul palco tra le braccia del padre. Quando vidi Steve sul palco con in braccio la piccola Jessie, nata da un giorno, pensai che fosse un uomo straordinario e un po' fuori di testa. Quell'episodio segnò il festival. Wozniak è completamente preso dal progetto del festival, nel quale investe cifre astronomiche. Decine di migliaia di spettatori, però, assistono al concerto senza pagare il biglietto e lui perde in tutto 5 milioni di dollari. Martha Kandel, biografa di Steve Wozniak. Steve si era divertito e non pensò mai di averci rimesso. Non aveva motivo di preoccuparsi per i soldi. Durante la settimana del festival, le azioni della Apple erano salite talmente tanto che lui era già più ricco di prima. Wozniak comincia subito a pensare a un secondo festival per il fine settimana del Memorial Day dell'83. Stavolta vuole prevenire tutti i problemi che ha dovuto affrontare per il sovraffollamento. Jim Valentine, promoter musicale. Pianificò tutto nei minimi dettagli e ai suoi collaboratori disse: prevenire è meglio che curare. Wozniak spera di chiudere almeno in pareggio e per attirare più pubblico inserisce nel cartellone alcuni famosi gruppi di heavy metal. E la decisione si rivelerà azzeccata. Quel giorno sul palco salgono personaggi come Ozzy Osbourne e Van Halen. E il prato è gremito di gente. Con 400.000 spettatori, la seconda edizione dello US Festival diventa il più grande evento rock della storia. L'arena era talmente piena che le recinzioni sembravano esplodere. La gente era pressata contro i cancelli e fuori ce n'era altrettanta. Quel giorno siamo stati davvero messi alla prova. Alla fine del concerto, 2 persone sotto l'effetto di droghe muoiono in un incidente stradale. La stampa dipinge il festival come un evento fuori controllo. Come se non bastasse, Wozniak continua a rimetterci. Stavolta perde 3 milioni di dollari. Wozniak ha 35 anni e sta per porre fine a un'altra importante fase della sua vita. La sua lunga carriera da studente termina nell'85, quando finalmente si laurea. Nello stesso anno, lui e Steve Jobs ricevono dal presidente Reagan la National Medal of Technology. Ma fra loro non va tutto bene. Wozniak mette fine al suo periodo di aspettativa e torna al lavoro, come consulente del suo amato team dell'Apple II. Jobs, però, vuole concentrare tutte le energie della società su un nuovo progetto, il Macintosh, e si creano degli attriti interni. Nello stesso periodo, termina anche il matrimonio con Candy Clark. Tutte le discussioni sul denaro e le scelte personali hanno logorato il rapporto. Nel 1987, dopo 6 anni di matrimonio, la coppia avvia le pratiche per il divorzio e per la tutela dei 3 figli. In quel periodo, Wozniak viene contattato dal rock promoter Bill Graham per un progetto che potrebbe distoglierlo dai suoi problemi. Graham vuole dare vita al primo tour del rock and roll americano in Unione Sovietica. Nonostante i 500.000 dollari spesi siano solo una piccola parte del capitale investito nei 2 US Festival, i risultati sono molto più grandi. Wozniak spende molto denaro, anche nelle feste che organizza a casa sua, sulle colline sopra Silicon Valley. È il modo in cui cerca di offrire qualcosa di speciale ai suoi amici e ai 3 figli. Senza badare a spese, trasforma la propria casa nel paese delle meraviglie. Nicholas Klenos, della Bill Graham Presents. Un Natale fummo invitati a una festa a casa di Steve. E quando entrammo, rimanemmo tutti a bocca aperta. Il suo appartamento era completamente innevato. Aveva cosparso il giardino e l'intera casa, comprese stanze e corridoi, di neve. Ottima neve artificiale. Nell'89, a una di queste feste, un amico di Wozniak porta una donna divorziata con tre figli. Suzanne Molkern. Suzanne non vede Steve dai tempi delle superiori, quando lei era una cheerleader e lui un timido burlone. Stavolta le cose stanno diversamente. Quando chiede ufficialmente a Suzanne di sposarlo, invece i due sono veramente soli. Lui le porge l'anello a 15 metri d'altezza, mentre fanno parasailing. Quando inizia a tenere lezioni gratuite di informatica nelle scuole locali, Wozniak capisce che insegnare gli piace. L'amore per i bambini porta Wozniak a sussidiare a San José il Children's Discovery Museum, che sorge su una strada che porta il suo nome. Finanzia anche la fondazione per l'alfabetizzazione dei ragazzi dell'attore Anthony Michael Hall. Adesso le apparizioni pubbliche di Wozniak si limitano alle recite scolastiche dei figli. Non possiede più una grande società high-tech, ma sente che ora la sua vita è piena di cose molto più preziose. Quando riceve il riconoscimento dalla Hall of Fame nazionale degli inventori, Wozniak sottolinea il fatto che è stata la sua voglia di imparare a dare vita all'era dei computer. La sua generosità resta famosa. Ma il regalo più grande che Wozniak ha fatto al mondo non sono stati i milioni di dollari che ha regalato, ma un balzo verso il futuro. La svolta innovativa che ha dato alla tecnologia dei computer ha cambiato la nostra vita. Wozniak continua a incoraggiare le nuove generazioni a sognare il futuro, come un tempo ha fatto lui, quel ragazzo timido e burlone che viveva in quella che ora, anche grazie a lui, viene chiamata Silicon Valley. Vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda domani, lunedì 13 ottobre, su History Channel alle 8.45. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi e Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte. Radio Doc torna tra poco. Restate con noi.